Un soldato dà il segnale d'alt, spara una volta sola a salve. Le finestre sbattono di colpo. Una mitragliata squarcia l'aria, altre, brevi e secche, sbriciolano il muro. La carcassa della casa sputa stracci crivellati. L'allegria d'assalto mette smania di conquista. Si vendemmia sangue, si dà fuoco in corsa alle baracche, si calpesta ferro, sasso, corpo, si fa scempio ad ogni viso livido insepolto. Gli occhi duri sulla morte altrui, infuocati, nella propria sono fiori chini, chiodi conficcati.